La comunicazione embedded non è solo quella dei giornalisti che vanno con le truppe, letteralmente embedded significa incorporato, intruppato potremmo dire, e oggi gran parte dell'informazione commerciale, ovviamente con le dovute eccezioni, però gran parte dell'informazione commerciale è intruppata, è invischiata in interessi che a volte sono quelli militari, e quindi vediamo i giornalisti che indossano la divisa. Però a volte sono interessi economici, interessi finanziari, e quindi i giornalisti indossano delle divise invisibili che noi non possiamo vedere, ma sono quelle delle aziende per cui lavorano e sono le divise delle ditte che fanno pubblicità su queste aziende, che in quanto tali non possono essere oggetto di critica. E questo intruppamento non nasce dal nulla, perché appunto si fanno grandi dichiarazioni di principio in ambito giornalistico, grandi codici di autoregolamentazione, però poi l'articolo 8 del contratto di lavoro prevede che un giornalista non può dire cose contrarie alla propria azienda, né appunto a chi fa pubblicità sul proprio giornale. Quindi per questo che su molti giornali non troveremo mai critiche alla Fiat, che è il più grande investitore pubblicitario italiano, o critiche ad altre aziende. Dall'altra parte che cosa c'è? C'è l'informazione sociale, quindi non intruppata, non invischiata in interessi che sono diversi dall'interesse del lettore, dall'interesse di conoscenza del lettore, e che nasce in ambito sociale, cioè così come esiste una politica dei partiti che viene messa sotto osservazione da comitati, gruppi di cittadini, movimenti di base, eccetera, eccetera, così sta nascendo un'informazione di base, una critica all'informazione commerciale che cerca di tirare un po', far venire al pettine i nodi, i limiti e le deficienze, i deficit dell'informazione commerciale, che ha come obiettivo quello di far quadrare i bilanci e quello di creare profitti. In tutto questo c'è una zona intermedia, e cioè un esempio è il tavolo Media e Solidarietà, che è nato in queste settimane, ma ci sono tantissimi altre realtà, dove dei professionisti dell'informazione commerciale che vogliono appunto allargare un po' la prospettiva rispetto a quello che è il loro lavoro, incontrano, cercano di arricchirsi, cercano di lavorare assieme a tutte le realtà dell'informazione sociale, tra cui il sito dell'associazione Peacelink con la quale collaboro, ma tantissime altre realtà che vanno da siti di movimento a piccole riviste a micro case editrici, che appunto in azione coordinata tra l'informazione sociale e alcuni seri professionisti dell'informazione possono offrire un terzo polo, diciamo così, alternativo al duopolio Fipra Publitalia, perché sono le concessionarie di pubblicità che guidano i programmi e quello che entra nella nostra testa, un terzo polo informativo che possa aumentare, diciamo così, la biodiversità culturale, la biodiversità giornalistica, la biodiversità comunicativa. Quindi Carlo, il convivio di Riccione si inserisce sicuramente in questo percorso per la creazione di questo terzo polo? Il convivio di Riccione dice che non ci può essere un'informazione di pace senza la partecipazione della società civile, proprio perché l'informazione che nasce dal basso, l'informazione che nasce appunto nell'ambito dell'associazionismo, del volontariato, della società civile, ha un vantaggio, cioè non ha bisogno di attirare molto l'attenzione, è un'informazione che può raccontare anche le cose che non fanno notizia, mentre chi deve attirare occhi sulla pubblicità, chi deve attirare lettori, chi deve invitare all'acquisto di un prodotto editoriale, racconterà a gioco forza solo le cose più sensazionali, solo le stragi, i massacri, le catastrofi, le inondazioni. C'è un proverbio africano che dice: fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. E oggi purtroppo l'informazione commerciale racconta solo gli alberi che cadono, perché bisogna fare più audience. Uscendo fuori da queste logiche ci sono anche dei soggetti che stanno raccontando le foreste che crescono, cioè quelle piccole realtà di cambiamento e parallelamente anche tutte quelle micro violazioni quotidiane dei diritti umani che purtroppo non arriveranno mai sulle prime pagine, perché non ci sono abbastanza morti, perché non c'è abbastanza sangue, perché in alcuni casi, se non c'è una catastrofe abbastanza grande, anche delle tragedie che si consumano nei paesi lontani del mondo non sono una notizia.